Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Mercoledì 14 gennaio 2009, 8:34 minuti. Oggi parliamo di Alitalia, un tema ormai rituale negli ultimi tempi, ma ne parliamo perché c'è stata la svolta. Finalmente, dopo tante discussioni, dopo tante polemiche, dopo tante proteste, trattative, accordi e non accordi, da ieri l'Alitalia ha cambiato veste, ha cambiato società, è diventata una società privata, completamente privata, e quindi affronta adesso una sua nuova fase, una sua nuova vita. Ne parliamo con Franco Locatelli. Buongiorno Locatelli. Buongiorno, buongiorno. Franco Locatelli, inviato, editorialista del Sole 24 Ore, oggi ha scritto un articolo, un commento in prima pagina da un titolo molto significativo: Il miracolo della normalità. Ecco, un titolo che è più un auspicio che non un dato di cronaca. Franco Locatelli. Sì, è esattamente così. Cioè, la privatizzazione di Alitalia era una necessità dopo il fallimento dello Stato, direi meglio il fallimento della politica e dei sindacati nella compagnia di bandiera, e però appunto il passaggio di proprietà è un punto di partenza rispetto a un obiettivo che è quello di trasformare l'Alitalia da carrozzone mangia soldi, come è stato negli ultimi anni, in un'azienda normale, cioè in un'azienda che mette al primo posto l'efficienza e la qualità del servizio. Da questo punto di vista però mi sembra che se la strada da percorrere è ancora lunga, le prime dichiarazioni sia dei vertici di Alitalia sia del presidente di Air France, con cui Alitalia ha fatto un accordo di alleanza internazionale molto importante, siano incoraggianti, perché questi valori, l'efficienza aziendale e al tempo stesso la qualità del servizio, mi pare siano ben presenti nelle loro strategie e nei loro obiettivi. Ecco, uno dei problemi principali di Alitalia, che ricordo intanto agli ascoltatori, il numero verde è l'800 24 00 24, dicevo uno dei problemi principali di Alitalia è stata la commistione tra la politica, oltre che quella del sindacato, che potrebbe essere più naturale, ma non certamente della politica con la gestione aziendale. Le scelte della compagnia di bandiera sono state sempre influenzate, condizionate, pilotate, si può dire, nel caso di Alitalia, dalla politica. La politica che fino all'ultimo ha cercato di condizionare anche la partenza di questa nuova società. E ora ci sono le condizioni perché la politica ora faccia un passo indietro e lasci volare da solo la nuova società, Franco Locatelli? Ma mi pare che i primi segnali siano incoraggianti, cioè il nuovo management di Alitalia ha dimostrato che la compagnia di bandiera non è un'azienda a sovranità limitata. Non è più un'azienda a partecipazione statale, è un'azienda che vuole decidere in totale autonomia. Da questo punto di vista più che le parole contano i fatti, e la nuova compagnia era attesa alla prova su due o tre terreni molto importanti. Il primo era quello dei rapporti con i sindacati. Mi pare che anche le proteste, i cortei, gli scioperi di ieri, che certamente hanno creato disagi intollerabili e sgradevoli, però siano per certi versi il segno che un conto è dialogare con i sindacati, un conto del tutto diverso è cedere a pretese insostenibili. Ma la prova del 9 c'era nella scelta del partner internazionale e anche nel modello di business, cioè nella scelta dell'hub di riferimento. Mi pare che su un fronte come sull'altro la compagnia sia andata per la sua strada, cioè ha ascoltato tutti, però ha deciso di scegliere Air France nonostante le pressioni favorevoli a Lufthansa, perché riteneva che le proposte di Air France fossero migliori, e per quanto riguarda il modello di business ha deciso di fare di Fiumicino l'hub di riferimento, questo senza penalizzare il nord, senza penalizzare Malpensa e Linate, però facendo alle istituzioni un discorso molto chiaro, e cioè Malpensa può essere rivalorizzata, cioè il numero dei voli può essere incrementato a condizione che le istituzioni lombarde facciano chiarezza. Non si può avere Linate e Malpensa che girino al massimo delle loro potenzialità, bisogna fare una scelta. In base a questo poi l'Alitalia si regolerà partendo da un presupposto fondamentale: la missione di Alitalia è gestire al meglio una compagnia di bandiera, trovando certamente un punto di equilibrio con gli aeroporti, però l'Alitalia non può farsi carico delle problematiche aeroportuali perché non è la sua missione. Ecco, indubbiamente l'esperienza di questi ultimi anni dimostra che le compagnie ben gestite, tra l'altro la stessa Air France, ma così come Lufthansa, come British Airways, hanno trovato la possibilità di avere degli spazi di mercato, degli spazi di redditività, degli spazi di crescita. Forse all'Italia in questa competizione parte molto in ritardo, la sua possibilità di crescita sono limitate anche dal fatto che le altre compagnie sono consolidate, ma un'alleanza con Air France, un'alleanza internazionale, si è sempre detto era indispensabile a questo punto per la compagnia italiana. Il problema per una società come l'Italia sarà quello di difendere la propria identità e di non entrare completamente nell'orbita di Air France, non diventare una compagnia satellite del grande colosso franco olandese. Alberto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Avrei una domanda molto semplice. Volevo capire la proporzione tra la cifra pagata da CAI allo Stato per l'acquisto di Alitalia, che si aggira sul 1.051 milioni di euro, e la rilevazione da parte di Air France del 25% di Alitalia da parte di CAI, che non è stata pagata 265 milioni, che sarebbe la proporzione di questa cifra, ma 320, quindi già con un netto guadagno da parte di CAI dopo soli pochi mesi da parte dell'acquisto dello Stato. E addirittura poi con la conseguenza, fra 4 anni, che CAI possa, i soci di CAI, almeno chi vuole, possano cedere la loro quota, quindi la maggioranza di Alitalia, ad Air France, quindi non ottenendo quello che il governo Berlusconi si proclamava di ottenere, dopo aver bloccato per 4 anni lo sviluppo sia di Malpensa sia di Linate all'ingresso di compagnie straniere che avrebbero introdotto maggiore concorrenza. Cosa ne dite? Ma indubbiamente sui calcoli finanziari non si può fare semplicemente un'applicazione matematica, perché si tratta di valutazioni che devono tener conto di molti fattori diversi in molte fasi diverse. L'acquisizione dell'intera CAI certamente può essere valutata, deve essere valutata in maniera diversa dell'acquisizione di una quota importante di controllo, che proprio perché è una quota rilevante, la maggiore quota privata, incorpora in sé anche la possibilità di incidere fortemente nelle strategie dell'impresa. Tutte le quote rilevanti hanno un valore superiore di una quota singola, di una quota particolare, quindi da un punto di vista finanziario è anche corretto il fatto che una quota appunto rilevante come quella rilevata da Air France abbia un valore superiore della somma delle singole quote, da un profilo strettamente finanziario. Poi da un profilo ovviamente politico generale, i se e i ma, quello che sarebbe potuto avvenire è certamente possibile ed è doveroso farlo, ma a questo punto forse è meglio guardare in avanti. Franco Locatelli. Ma sono pienamente d'accordo, cioè la cifra sul primo punto, la somma pagata da Air France dimostra quanto fosse importante per Air France procedere sulla via del consolidamento e quindi mettere radici anche in Italia, quindi la somma va letta anche in questa chiave. Dal punto di vista generale, certamente la storia di Alitalia potrebbe essere una storia di rimpianti. Se solo pensassimo che nel 2003 esisteva un piano fatto dall'allora amministratore delegato di Alitalia Mengozzi, un piano approvato dal Tesoro, quindi un piano approvato dall'azionista di controllo della compagnia, che prevedeva la privatizzazione e prevedeva l'ingresso di Alitalia in un network internazionale, quello appunto con Air France e KLM, nel quale Alitalia avrebbe avuto una quota del capitale pari a circa il 30%. Purtroppo quel piano, nonostante l'appoggio del ministro del Tesoro di allora, che era quello di oggi, cioè Giulio Tremonti, venne affossato in Parlamento per le contraddizioni della stessa maggioranza. Quindi certamente c'è un grande rimpianto per le occasioni che abbiamo perduto, però ha ragione il direttore Fabi nel dire che non si può vivere solo di rimpianti, semmai del passato dobbiamo fare tesoro, bisogna guardare avanti. Certamente la vicenda di Alitalia nell'ultima fase era cominciata con molte incognite e molti interrogativi. La soluzione che è stata trovata non è in assoluto la migliore, però certamente era l'unica possibile e l'unica praticabile, ed è una soluzione che lascia aperte molte possibilità di crescere, soprattutto nel momento in cui Alitalia fa finalmente parte in modo integrato di un'alleanza internazionale che ha dimostrato già le proprie capacità. Ecco, grazie, scusa Franco Locatelli, ti devo interrompere un attimo, dobbiamo dare lo spazio al traffico, ci sentiamo tra poco. Dietro la notizia. Buongiorno, ben ritrovati, stiamo parlando di Alitalia, del futuro della compagnia di bandiera, ormai completamente privatizzata, ne stiamo parlando con Franco Locatelli, editorialista del Sole 24 Ore, stavamo dicendo alla sospensione che bisogna guardare in avanti, ora Franco Locatelli, le condizioni per fare di Alitalia una compagnia che stia sul mercato, che sappia guadagnare anche se lentamente quote di mercato, che sappia produrre utili, ci sono tutte, se questo piano fallisce è solo colpa nostra. Ma sì, mi pare che le condizioni per sperare in un rilancio della compagnia e anche in un buon servizio per i clienti, per i viaggiatori ci siano, cioè la compagnia ha un piano industriale realistico, ha un'alleanza internazionale di prim'ordine, ha un management che ha dimostrato in altre situazioni aziendali di saper affrontare situazioni complesse, mi pare che ci siano tutte le condizioni per poter sperare che la compagnia finalmente trovi la propria strada. Direi che c'è una prova che possiamo facilmente fare. Ieri ho avuto modo di parlare con un paio di alti dirigenti della nuova Alitalia e mi dicevano: per noi la prova che le cose stanno andando bene deriverà non solo dall'indice di soddisfazione dei clienti, ma deriverà dallo spazio che Alitalia troverà sui giornali, cioè quanto meno spazio d'ora in avanti Alitalia troverà sui giornali perché fa un servizio normale che quindi non fa più notizia, tanto più avremo la prova che il nostro lavoro sta raggiungendo degli obiettivi finalmente positivi, e quindi auguriamoci che sia così. Ma speriamo anche di poterne parlare però dando delle notizie positive, anche le notizie positive dovrebbero trovare spazio nei giornali e sulle radio. Un ascoltatore su un SMS dice: ma perché non dite che la vecchia Alitalia è fallita? Ma non abbiamo nessun problema a dirlo, l'abbiamo detto e ripetuto, la vecchia Alitalia è fallita, e con la vecchia Alitalia è fallito un modo di governare una società di Stato legata alla politica e legata al sindacato, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, e adesso si apre appunto una nuova fase. Indubbiamente la nuova Alitalia parte con dei privilegi, per esempio la sospensione delle norme antitrust, parte con i privilegi, per esempio la cancellazione del vecchio debito di Alitalia, parte con una posizione di favore, ma ecco, una posizione di favore che era necessaria per cercare di uscire dallo stallo in cui si era arrivati dopo appunto il fallimento della vecchia Alitalia. Marco da Torino, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei, buongiorno al suo ospite. Posto che penso che siamo tutti contenti di continuare a vedere il marchio con la bandiera italiana in giro per il mondo, perché non dimentichiamo che gli uffici commerciali d'Italia nei paesi del mondo comunque rappresentano un pochettino l'Italia, la domanda che vorrei fare a lei, ma soprattutto al suo ospite, è molto secca. È appena detto che Alitalia vecchia Z è fallita, e quindi mi aspetto che i titoli, le azioni in possesso dei 40.000 piccoli azionisti siano degli stati, e a questo punto non ci sia più nessun tipo di possibilità di rivedere i soldi investiti. Grazie, aspetto la risposta in radio. Grazie, mi sembra purtroppo per chi possiede questi titoli che la verità sia questa, cioè i titoli della vecchia Alitalia non valgono più nulla. Franco Locatelli. Sì, esattamente così. D'altro lato, un investimento azionario è un investimento in capitale di rischio, e quindi chi lo fa deve meditare bene le proprie scelte e mettere anche nel conto che si può guadagnare ma si può anche perdere. Nel caso dell'Alitalia purtroppo è così, visto che siamo di fronte a un sostanziale fallimento della società. Con un'aggiunta che si può fare, che sono almeno 10 anni che si parla delle difficoltà di Alitalia, delle difficoltà di questa società, chi ha scelto di restare azionista della società perché avrebbe potuto vendere i titoli finché i titoli sono rimasti a listino, cioè fino a qualche mese fa, ha scelto di fare poi una scommessa, perché investendo in una società che era con dei conti disastrati come quelli di Alitalia, scommetteva solo sul fatto che si potesse essere una vendita a qualche altra società che potesse valorizzare appunto questo asset. Quindi era in pratica una scommessa sul futuro più che una scommessa sugli utili possibili nell'immediato, e le scommesse ogni tanto si vincono e ogni tanto si perdono. Questo, come diceva Franco Locatelli, deve entrare in conto. Ma ci avviamo un po' alla conclusione di questa nostra conversazione, abbiamo solo pochi minuti. Giampiero da Monza, rapidamente. Sì, buongiorno e grazie. Buongiorno. Io volevo portare la discussione un attimo sulla situazione aeroportuale dell'area milanese. Adesso che abbiamo riconsegnato al mercato all'Italia, perché dobbiamo invece tenere sotto tutela, quindi controllando e decidendo cosa debbano fare gli aeroporti milanesi e non li lasciamo al mercato? Ridurre l'INATE a un servizio shuttle Milano Roma, secondo me vuol dire chiuderlo, ormai con i treni ad alta velocità l'INATE in inverno con rischio nebbia non serve moltissimo sulla tratta Milano-Roma. Malpensa non è in grado, io abito a Monza, per me l'INATE come utente, e quindi dico che cosa fa l'utenza, è comodissimo. Andare a Malpensa per un servizio aereo significa per me avere i voli nazionali aumentati di 2 ore nel tempo di percorrenza. Credo che si debba riconsegnare anche gli aeroporti al mercato. Se CAI non è interessata a Linate e a Malpensa, liberalizziamo gli aeroporti alle compagnie che vogliono utilizzare le utenze che quegli aeroporti vogliono utilizzare. La ringrazio, mi sembra che vada in questo senso, peraltro l'emendamento che sta per essere approvato dalla finanziaria, che liberalizza gli slot di Malpensa e che consente appunto al governo di fare nuovi accordi. In 30 secondi per concludere, Franco Locatelli. Certamente bisogna riconsiderare anche il ruolo degli aeroporti, però ecco, se c'è una cosa che la vicenda di Alitalia ci ha insegnato è tenere distinti i ruoli e non fare confusione. I problemi di Alitalia devono trovare una loro soluzione, speriamo che finalmente abbiano imboccato la strada giusta, i problemi degli aeroporti sono un'altra cosa e devono trovare una soluzione razionale che guardi al mercato ma guardi anche con grande onestà alla possibilità di organizzare gli aeroporti in modo assolutamente razionale. Grazie Franco Locatelli. Proprio sul fronte degli aeroporti c'è da dire appunto che, essendo una risorsa scarsa, non si possono moltiplicare come si vogliono, è fondamentale che le regole che sovrintendono la gestione degli aeroporti, lo sviluppo degli aeroporti e la concessione delle linee siano regole che favoriscano il mercato, che favoriscono appunto la concorrenza, e in questa prospettiva spazio sicuramente ce n'è. Ringrazio Franco Locatelli, editorialista del Sole 24 Ore, Carmelo Larricelli in regia. Quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani.